sotto la caserma ti stavo ad aspettar. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò. Con te, Lili Male, con te, Lili Male, con te, Lili Male. O trombettier, stasera non suonar, una volta ancora la voglio salutar. Addio piccina, dolce amor, ti porterò per sempre in cuor. Con me, Lili Male, con me, Lili Male, con me, Lili Male. Dammi una rosa da tener sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi, Lili Male, a chi, Lili Male, a chi, Lili Male. Quando nel fango debbo camminar, sotto il mio bottino mi sento vacillar. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te, Lili Male, a te, Lili Male, a te, Lili Male. Se chiudo gli occhi, il viso tuo m'appar, come quella sera nel cerchio del fanal. Tutte le notti sogno allor di ritornar, di riposar con te.